Mario 10, cambio. Hola. Attenzione, binario 10, cambio. Hola. Hola, binario 10, c'è qualcuno, cambio. Hola. Hola. Attenzione, binario 10, cambio. Subito un attimo. Guardava. Oh. Prova radio, cambio. Ora. Aspetta, c'è roba al forno, un attimino. 10 minuti, arrivo. Ia. Dovrebbe entrare anche Giulio stasera, che l'ho trovato stamattina, mi metto che li faccio sentire. Io non so, già si fa sentire Giulio, non c'è problema, o mi chiama, ti manda un messaggio, già entra quasi sempre. Aspetta 10 minuti, sto girando sta cosa al forno, l'ho portato ormai in campagna, siamo in attacca a tutto. Ce l'arrivo subito, sono qua, ok? Fai, dai, chiaro, 5 minuti e poi sto là. Eia, eccomi. C'è qui 10, c'è qualcuno qui? Eia, sono 9. Dove stiamo qua? Anche ieri sera, Franco, con me, con Gianni. Sì, adesso il mando un messaggio. Io ho mandato a Marco, se vuole entrare. Ok, non ti ha risposto Marco? No, non l'ho neanche letto, lo c'è ancora drumito. Sarà andato a letto stamattina. Stamattina, perché ieri notte, ormai lui è tutto solo morto. Sempre pistrello, by foot. Vabbè, è un malato acceso. Ah, e così, visto che era online, se lo legge, noi siamo qua, se vuole entrare. C'è anche Gianni, no, io avevo roba al fuoco e stavo finendo di preparare. Guarda Gianni un attimino, che entravo subito. Ah, è già entrato Gianni? Vabbè, stavo chiedendo se avevo visto. E avevamo deciso di entrare stasera. Va bene così. E è piove, è piove. Lui. Abbiamo spostato la gru stamattina. Siamo posizionati per fare gli ultimi piani alti della torre, ma tempo di posizionarla, organizzare, è cominciato a piovere. Allora, a mezzogiorno l'operatore se n'è andato, è Perugi, è fatta. Adesso vediamo domani mattina cosa si riesce a fare. Anche domani sembra che piove. Pioverà anche domani, sicuramente, perlomeno stando al meteo. Speriamo bene che smetta, se non altro, verso le due, e poi allora devo uscire. Speriamo bene, mi basta dalle due alle tre metto, se non piova, se non mi scuccia. C'è troppo freddo, tempo brutto, infatti no, ma scegliamo domani mattina se ci sono stati in campagna. Non so, per oggi siamo dedicati un po' qua, ma non ho combinato nulla a Tessi, a posizionare questa gru enorme, quindi ti ha fatto lì le macchine, eccetera. si è fatto tardi e poi alle 11:30 ha iniziato a piovere. Quindi stasera non abbiamo fatto niente, adesso vediamo un po' domani cosa si riesce a fare. Gianni, ci sei? Gianni, animagni, sì o no? Lei stava andando a mangiare agli animaletti che c'è, alle cavie. Va bene, va bene. E quindi, che si dice? Ovviamente stamattina mattina c'era la Tecnocas, bellissima, qui, là, bim, bum, bam, ma questo, ma quello, ma quell'altro. E io aggiurito, mi, a gaggia che ti aggira voi, siete beati, uscire, se no, cioè non mi sta chiedendo niente. Già stanno venendo a vederla, già da un anno e mezzo che vengono a vederla, però nessuno può comprare. Chi andare in banca domanda di denaro e vogliono garanzie. Non possono manco ipotecare a casa perché ci vuole l'atto per ipotecarla, quindi. E siamo così. Mo vediamo se ce la facciamo quest'anno. Non è che prima o poi qualcuno arriva a quei soldi e ce la compra, altro che. Lo so, perché la banca non finanzia tutti, finanzia l'80%, mi sembra 85%. Così mi stava dicendo un amico che ha ereditato una casa lì a 3 dollari. La stanno comprando, sono due giovani, uno sposini, che stanno lavorando in continente, e però anche loro sono di 3 dollari, perché se sta vendendo questa casa, questo amico, ed è già un po' di tempo che non riesce questo a prendere i soldi, la banca gli dà solo 80%, mi sembra che vale solo 85%, e anche loro evidentemente non hanno la rimanenza, e dunque non ho, ancora sono così a punto di partenza. Sì, ne hanno discusso, ne parlano continuamente, quello è intenzionato a comprare, però se non procura soldi, non c'è niente da fare. Infatti, sono soldi subito alla mano, però niente. Sì, ma infatti sta nascendo questo problema. Capito, addirittura uno mi ha fatto la proposta, diceva cioè arrivo 80%, a me la manca, me la dà, però l'altro 20% me deve dare il tempo. E il tempo di che cosa deve? Io l'80% lo accetto, il 20% quando lei mi dà il 20% io lo consegno a casa. No, ma a me mi serve. Ma a me mi serve in Napolo, infatti brucio la gaggia con l'80%, se mi bruci l'altro 20%, poi una volta che hai fatto l'atto, come facciamo? Non si può, capito? Dice, le faccio le assegne a garanzia, le faccio, no, voglio non delle garanzie, io voglio vedere, io ho comprato con i soldi la casa, ma gli butto 2 anni a pagare 1000, ma buffonete sì, no, 10, 12, non 10, stavo prendendo 12 anni in mutuo, quindi sta nascendo questo problema che purtroppo è la banca che te lo crea, perché se uno le serve il 100%, dove il 100%? Cosa dai l'80%? Il 20% devi mettere tu, e se uno non ha, come te vai a comparare? Capito? Sta nascendo questo problema, hai ragione, è questo qui il problema, anche un altro lo stesso, ho l'80% ma non ho il 20%, si vince col 100%, non con l'80%, la giudica uno, si porta pure a redì, cosa ci vuoi fare? Non ti posso dare a casa gratis. Oh, ma nemmeno per soldi, figurati, perché così? Allora, mi ha risposto Franco, arriva fra 20-30 minuti, perché non è a casa, dunque fra una ventina di minuti o 30 minuti massimo si fa sentire, mi ha risposto, così adesso. Sì, ma è così, caspita, e tu il 20% non metti di nato, è uno scherzo, caspita, non è solo il soldi di una pizza, se una casa costa per dire 150.000 euro, 20%, fate un conto, sono 30.000 euro, non vado, una cosa del genere, non è poco, non è poco. Già. Sì, ma fate così, molti hanno questo problema, te l'ho detto, ma anche stamattina un altro lo stesso, la casa è stata periziata, valutata, tu l'hai vista, la conosci bene, nuova, in ordine, non manca assolutamente niente, è stata valutata dal perito della banca, intesa 130.000 euro, e io 130 voglio, 41.000 euro, 80%, mi mancano quasi altri 40, se ci mi bruci, no, assolutamente. Se lo vogliono con i soldi è qua, e se no già rimane qui, non c'è nessun problema, non mi sta chiedendo niente, ma io forse da una bacia all'altra, avanti già. Io il capitalista con 2 case, oh yeah. Buonasera a tutti. Allora, per tua cosa ne ho tre, veramente, perché ho il 50% di quella via di San Francesco anche, che diciamo è grande quanto è questa, quindi esattamente ne aggiungo tre, però sono tutte ereditate. Questa me l'ho fatta con mia moglie con tanti sacrifici, le altre abbiamo fatto gli investimenti. Quindi dovrebbe sbloccarsi secondo me prima quella di San Francesco che questa, perché una parte è già venduta, sono due mansarde accoppiate, una è già stata venduta e abbiamo già diviso i dineros, cioè mio cognato con mia moglie. L'altra è in vendita, ma è più frequentata rispetto a questa, capito? C'è più traffico anche perché costa meno, erano due assieme, erano 200.000 euro, mentre adesso quella che c'è è 100.000 euro, perciò è più fattibile di 130-140. Perché io ho anche il posto auto, mica ha una tua parte, Giulio, attento, e quel posto auto mi è costato 10.000 euro a me, con un atto a parte. Quindi stando la casa più il posto auto non è che poi farà puoi scendere di più, assolutamente. Riprendi Giulio. Ciao Gianni, ben fatto. Mi hai comprato una bella mia a Porto Torres, così di fronte alla colla, mia cognata. Ma bella, bella veramente, una bellissima casa. Non è molto grande, però devo dire che è veramente una bellissima casa. 68.000 euro, mai abitato nessuno, non fa, mai, non c'è stato mai nessuno. Gli hanno dato anche due garage, e questo puoi immaginare, la casa nuova, anche con un pezzo di cortile e tutto quanto. Ma veramente bella, ma l'unico problema è che è a piano terra, a me a piano terra non è che mi piace molto, però diciamo che quando uno se la assicura bene, la casa con tanto il portone blindato e tutto quello che occorre per le finestre, va benissimo lo stesso. Poi 68.000 euro a Porto Torres, nel Messico, ha fatto una palona, ha fatto veramente una palla, ma vabbè, tramite un suo parente, dai, che era fatta bene, io ho questo, e che era fatta bene lui, che era fatta bene, che lo stesso costa anche molto di più. Ma quali sono quelle villette che ci sono di fronte a cosa? Di fronte ho capito quali sono? No, cioè di fronte alla Conrad, cioè via delle vigne, la Conrad scendendo la stanza lì, la Conrad è sulla letta, no? Lei è nel marciapiede opposto, col palazzo altissimo che c'è all'altra parte, dove c'è il marciapiede che poi anche c'è la mattuta eccetera, lì di fronte. Dove abitava Fraghimi, Claudio? Sì, di fronte al Bar del Pino, ti ricordo che c'era un Bar del Pino, dove c'aveva il... non so se c'era ancora, no, non c'era più, dove c'aveva il laboratorio di cose, scandagli, cose, come si chiama quello? Non ricordo, sì, ma Portatore i prezzi sono quelli, mamma ne ha due a Portatore, una dove abita lì, l'altra è affittata praticamente, che poi toccherà a noi, però quella lì è già stata periziata e il prezzo, vabbè, forse un po' più grandetta di quella, ed è al centro storico, sono tutte e due al centro storico le case di mamma. Però la valutazione è quella, dai 90-95.000 euro, 85.000 euro. Il piano regolatore di Portatore è molto più basso rispetto a Sassari, soprattutto questa zona. Questa zona tu considera, quando ho comprato io ho comprato a 53 milioni, ma nell'87, nell'85, nell'87 sono venuto ad abitare. Quindi è salito tantissimo, adesso è a 600 euro mi sembra il metro quadro, comprano qua a Carbonazzi, perciò la valutazione è quella, non è la giovalutata io, c'è una perizia, tutto scritto, perché c'è tutta la documentazione dell'impianto elettrico, quindi diciamo 2001, tutto, altrimenti non puoi venderlo, devi avere tutte le carte in regola, il terreno pagato, tutta la documentazione del comune, certificato di abitabilità, tutte quelle cose non me le hanno regalate. Quel certificato di abitabilità, quando abbiamo sciolto la cooperativa, ci ho pagato 1200 euro. Sono tutti soldi, però questa gente non capisce, non è che la buccia regalata. Però caro Gianni, vedi, lì ne avrei avuto quattro, però lì abbiamo deciso tutti e cinque fratelli di vendere tutte e due le case e portarci a casa i soldi, che conviene. Già mi basta che ci viaggio, non ne voglio più. Avanti Giulia. Avvicinati di più al microfono, Giulio, parla normalmente, sei basso in radio, faccio fatica a volte a capire quello che dici, avvicinati al microfono un po', sei troppo distante. I notai solo per leggere vogliono soldi, vogliono un bene di nato, capito? E purtroppo è così, avanti già. Io ne ho una, è interessante che sia la mia e che non mi si mangia nessuno, già mi va bene così, non me l'hanno ereditata a me. Anzi vabbè, quella di mia madre, che poi abbiamo diviso i soldi fra tutti, l'abbiamo venduta e abbiamo diviso i soldi. E così faremo noi, perché eravate in tanti, ma qua mia moglie e il fratello sono in due, quindi hanno deciso loro. Capito? E anche questa è la mia, non mi si voglia nessuno. Anzi, io ero all'ultimo piano veramente. Quella l'ho già venduta. Ho fatto sistemare questa come volevo io, ma sono andato via a Pasqui e poi sono tornato qua. Capito? Quindi va bene così. Il resto è stato un investimento. Come già vai, dirà? Chi vi dirà? Si è Magnattini? No. Non faccio più errori io, assolutamente. Investiti e va bene. Dovesse andare male, rivende tutto, recupera i quattrini. Dico, dovendo andare male, che poi no, non deve andare male assolutamente niente, perché non ha giù altri migliori, ne ha giù una giù, però è così. E se Dio ci lascia, ti fai una bella vecchiaia. Perché quest'estate veramente mi sono divertito, ma divertito veramente. Divertito veramente, sono stato benissimo, ho passato un'estate meravigliosa veramente. Poi c'è che manca la comodità e siamo andati a mare. Abbiamo fatto poco di feste e festicciole. Guarda, San Francesco è bella già, qualche giorno ti porto a vederla. Ma non bella no, bellissima. Io l'ho vista Fabrizio, l'ho vista Walter, ma bella veramente. Sono due mansarde accoppiate, ma fatte tutte con travino olivo, Giulio, a vista, tutte le finestre per mansarda sono tutte a motore, si aprono elettronicamente, bellissima, tutta la parte della cucina è tutta rivestita, sia da una parte all'altra, tutta in pietra, bella veramente quella casa. Solo al terzo piano c'è ascensore, capito? Qui ci vogliono giovani, infatti una l'hanno presa una coppia giovane, insomma, e l'altra ancora è libera. città Freiburg è libera. Ci stava abitando un parente di mia moglie che stava facendo la casa qua a San Simplicio e quindi aveva bisogno di un alloggio. E addirittura ha comprato la cucina fatta a misura, no? Perché sai, ma sapere come sono, ma è abitabile al 100%, non tocchi da nessuna parte. Ha comprato la cucina, l'ha lasciata lì, ha detto portatela via, cosa me ne faccio io qua? La lasci lì, le vendi e vendi e vendi così con la cucina già pronta, fatta su misura, capito? Molto bella, c'era due bagni, una e due bagni l'altra. No, 120 metri quadri una, 120 metri quadri l'altra, vendute tutte e due assieme, sono 240 metri quadri d'appartamento. E vabbè, speriamo bene, dai, così cambiamo un po' come di là. Riprendi, Giulio, fammi sentire la modulazione, perché era bassa poco fa. Ero molto lontano dal microfono, anche perché basso le macchine. Adesso mi un nuovo messaggio da Franco. Giulio, scusa, ma non ho avuto un contrattempo. Non so se ce la faccio, ciao. Per cui ha avuto un contrattempo, non si sa se ce la fa a rientrare presto per entrare per questa. Sì, bene se va così, ragazzi. Ottima, così lasciala, non ti allontanare, io sono a 20 cm dal microfono. Va bene, se no sei troppo dispersa la modulazione, a volte non si capisce. Avanti già, date a mangiare ai bambini. Sì, dato da mangiare prima di venire qua in frequenza. Dai. Ho messo l'erba, aia. Ho messo l'erba così almeno l'hanno mangiato. A te lo deve mangiare, mangia con me. Quando c'è lui, ce l'ha lui. Buonasera. Ciao Luca. Un controllo, Fulvio, come sto uscendo, dai, che ho fatto tutte le... E ti ha dato le nuove, come sto uscendo? Tu qua sei 9.25, Radio 5. No, beh, a me interessa la radio, avanti, ciao, giù, mi ascolti, ciao, avanti, ciao. Santiago 8, Radio 5, Luca, molto meglio di ieri stai andando, avanti Giulio. Ok Luca, ciao Luca, sì, Santiago 5 qua, Radio Vasta, però già capisco quello che dici, perciò problemi non ce ne sono, puoi parlare lo stesso che già ti ascolto, avanti Luca. E vabbè, ma strappo, 1, 2, 3, prova. Strappa? Ma no. Ah, non strappa? Assolutamente, qua no. No, va bene. Allora, guarda, qua, adesso abbasso, Qua, adesso sono a minimo, là, di potenza, ora un po'. Scendi a Santiago 4, 5, se c'è quel rem non ti sento più, Giulio, lo stesso, è lontano. Gianni ti ascolta e si è attaccato a lui. Lascia come la prima, Santiago 8 va benissimo. Comunque questa antenna ha perso un po' perché la ricezione è scarsa, Prima ricevevo più volte, cioè, arrivi Santiago 5 qua. Prima arrivi di 9. Gianni arriva 9 e spaccato. Ho capito, ma non è colpa mia. Non è colpa mia, lì sei vicino e comunque qua arrivi bene, ti difendi abbastanza bene. Santiago 8 mi arrivi, 7, 8, dai, c'hai picchi positivi, va bene così. E lì bisogna mettere un'interna come Cristiani o lui, capito? Avanti Giulio. Ok, bene, senti. Vabbè, dai Luca, c'è che altro sta, secondo me che ti dica. Fai come ti avevo detto la volta scorsa, raga. Cosa ci vuole, cosa due lire, con due lire te la fai l'antenna tranquillamente, fai come ho fatto io, così non spendi molto, con 25-30 euro massimo hai l'antenna performante, e va bene lo stesso, no? Tanto non abbiamo noi di problemi di trasmissione, di ascolto, già siamo vicini, per cui va bene. Sì, lo so, è alta, non so se tu la puoi piazzare, ma suppongo di sì, e stavo dicendo che forse la potevi piazzare sul tetto, per cui penso che tu lo possa fare veramente. Speriamo bene. Vabbè, dai, avanti Gianni. Aia. Ma lì Luca sei alla peloce adesso? Sì, Gianni. Per quello. Però ti ti arrivo bassino, è strano, ti arrivo molto basso io per... Hola, hola. Così basso ti arrivo, 9, solo 9. Allora, devo smettermi, mi arrivi 9, devi lei vuoi accendere tutti, 9.30. Ho capito. E magari avvaro, lo Smith. Lo Smith è avvaro. Lo Smith, dai, mi assento, ci sentiamo dopo. Ah, assaggiare, non dipende da te. Sei 9.30 qua, lui già buffonandici. Lascia stare tutto così che stai andando più che bene. Avanti Giulio. Sì, la moglie si sta andando bene. Ma Luca si sta ritirando. Mi sembra di aver capito che si stava ritirando. Confermi Luca, se stai ritirando? Per aver chiuso già. Ciao Luca, se vi sei ascoltato. E io ho detto che rientra dopo, che è impegnato. Già si fa sentire dopo. Un altro messaggio a Rattapignale, ma c'è ancora dormito, dice che ce l'ha visto. No, non l'ha visto. Oh, se tu mandi un messaggio a Marco per contattarlo bisogna fargli chiudere il telefono. Certo, se gli mando un messaggio lui lo vede dopo una settimana o cosa del genere. Tutte le volte che gli ho mandato qualche messaggio si è impiegato una settimana per leggerlo, penso un po'. No, non le guarda nemmeno, deve fargli squillare il telefono e basta. Così almeno lo puoi contattare direttamente. Avanti Gianni. E per Marco ci vuole la scuotitrice, quella che usano per le olive. Così si scenda. Cazzo, poi vi ha già taloretto. Non è possibile. Vabbè, lasciamolo dormire, dai. Se ha voglia di dormire, cosa vuoi fare? D'altronde, se è stanco. Lo saprà lui cosa vuole fare. Ogni tanto che si fa sentire, comunque, carichi il PMR, mamma mia. Bisogna ringraziarlo, la signora. Luca, se ne è andato da Roma, si è andato in PMR, come sei stato tu? Boh, io non lo so come. Vabbè, dai, riprendi già. Fanno così. E poi adesso con questa storia di Cibital che sono tutti in chibi, poi e abbandonano tutti la frequenza, ma guarda, mi ha incuriosito il primo periodo, poi se la vedo un po' fredda come cosa, non, sì, diciamo che è comodo perché non ci vuole antenna, non ci vuole un cavolo, però la stazione è la stazione, quando tu c'è la stazione davanti è un'altra cosa giù. Ma io sono d'accordo con te già, ci mancherebbe. Sì, beh, in effetti sì, infatti io ho sempre detto noi di Sassari, perché quando dobbiamo andare a parlare lì, dobbiamo andare nei canali, non nella versione gruppo, nella versione canalizzata. E abbiamo l'appuntamento sul canale 14, perché lì assolutamente ci rimane Antonello, Pomponio e anche Leoncino. Io anche la volta scorsa l'ho sentito. A proposito, sai chi ha sentito già tempo fa, saranno una 10-12 giorni fa, ho sentito a Salvatore Maestrale dall'Austria, ti puoi immaginare, due volte l'ho collegato, e non solo io, l'ho collegato anche Roberto Quadrato, ancora prima di me, solo che lui l'ha collegato una volta solo, io l'ho collegato già due volte, e mi aveva incaricato di salutare tutti gli amici di Sassari, e vabbè. Maestrale, ma dove l'avete sentito? Sul 14? No, sulla versione del gruppo. Era nei gruppi, io sono entrato nella versione dei gruppi, io, e c'erano 7-8 persone, perché io quando entro lì entro solo dove ci sono poche persone, non dove ci sono 50-60 persone, lì non mi interessa, entro dove ci sono poche persone, perché se no non fai questo, se no è uno schifo. Perché invece quando ci sono 6-7 persone va bene, hai anche la possibilità di parlarci, ma se ci sono 50-60 persone, adesso ci sono tutti i camperisti, ci sono tutti i camionisti, poi ci sono quelle ragazzine, quelle donnine e da quattro soldi che praticamente monopolizzano il canale, no, non mi va, lì non mi va. Infatti è per quello che avevo detto io, quando noi dobbiamo parlare lì su CB Talk, se dobbiamo andare sullo canalizzato e magari sul canale 14, e sul canale 1 di solito c'è Pierpaolo, c'è Pierpaolo con Antonio a Bombolo, però loro la usano soprattutto per il lavoro, quella versione lì. Sul canale 1 loro di solito rimangono, capito? Quando Antonio va a consegnare la nuova richiesta della bombola, il padre gliela dà tramite CB Talk. Avanti già. Italia 1. Sì, ma CB Talk però, un CH, tu devi mettere il tasto CH, devi mettere, e metti canale 1, e loro di solito sono lì. Ecco, ho capito. Già lo conosco, ho visto, l'ho studiato un po' come funziona. Puoi vedere gli amici che ci sono, in alto a sinistra, vedi gli amici che ci sono, poi puoi mettere i canali, puoi mettere i gruppi, poi giù c'è la cartina, da dove parlano, ti indica, e poi dall'altra parte c'è il radar. Sì, dall'altra parte c'è il radar, e se la metti, se tu cambi nazionalità, ad esempio noi quando facciamo iscrizione mettiamo Italia, no? Se tu cambi nazionalità, cioè praticamente mettendo rubrica, poi impostazioni, e poi si schiaccia sulla bandierina e cambi nazione, poi puoi mettere ad esempio la bandiera della Francia, e allora li senti parlare tutti francese anziché italiano. Già è una bella applicazione, devo dire che è bella l'applicazione, però a me non mi entusiasma più di tanto, se non il parlare solamente in quella versione di canalizzata, ma per il resto non mi interessa più di tanto. Sì, ascolto, quando non c'è nessuno a Balatino, allora vado lì e ascolto, anche la notte alle volte mi metto le cuffie e ascolto, sono stato anche fino alle 2-3 mattine ascoltando, ma solo perché non avevo sonno, è solito così. Avanti qua. No, vabbè, io stesso. Quando devo fare radio faccio radio. A volte l'ho messo anche l'altro giorno in campagna, te ricordi? E ci eri tu con Antonello, con Cosi. Ho fatto due chiacchiere lì. Però già. E ci piace la stazione, quando stiamo parlando con l'applicazione. Ci mettiamo lì alla stazione di Sassa, in macchina davanti. Guardi la stazione e parli al telefono. Ok, già. Sì, beh, certo. Sì, ma no, indubbiamente già è una bella cosa, e poi è tutto gratis, tanto il telefonino ce l'avevamo già, per cui non abbiamo dovuto spendere un centesimo per l'applicazione, e va bene così. La migliora, anzi bisognerebbe anche ringraziarla, tutto sommato, che dà la possibilità alla gente di parlare dall'altra parte della terra, in pratica, cioè con tutto il mondo. Per cui va bene, è una cosa, se non si sporca, anche perché ogni tanto ci sono degli imbecilli che fanno i cretini, però lo diciamo, più di uno, e più di due, più di 5 o 10 ne hanno già bannato, ma non so poi in che maniera possono fare per rientrare, magari cambiandosi la scheda, perché ti rovinano la scheda e tu non senti più su quella cosa lì, a meno che uno non si compra la scheda del telefono nuovo qua. Beh, c'è un, come si chiama, coordinatore, ci sarà, non so, è chiaro che se vede che, come il computer, noi avevamo un sistema con delle canzoni, mettere canzoni con Luca, eccetera, forse ancora ce l'ha, però ci sono quelli appunto che se ti comporti male, ti bannano, ti buttano fuori, ma è giusto che sia così, è un'applicazione seria quella. Vedo che a volte anche io ascolto, perché sono molti camionisti che usano per lavoro anziché stare col baracchino, sono anche organizzati, qualcuno ha messo la foto anche su Facebook dell'applicazione con proprio completa, col microfonino, con tutto, capito? Il telefono attaccato al cruscotto, col cavettino, telefonino con l'auricolare, sono organizzati, va bene. Però se poi si sporca, come sta iniziando a sporcarsi anche il PMR, secondo me, perché io con la scusa che sto molto in ascolto in VNU, è una frequenza, siccome ne ho due di radio in VNU, quindi c'è inserita anche l'una la frequenza PMR. È vero che c'è, sta iniziando a esserci un po' di mondezza, ok, bambini, bambinetti, quello, quell'altro, quello non è un gioco, quelle sono frequenze UHF, se sbagli li paghi, già bisogna stare attenti noi, perché noi, perlomeno io, non ho niente da nascondere, perché ho la patente amatoriale, quindi non me ne fotti nulla le radio, che io sono tutto amatoriale, però chi non ha la licenza amatoriale già usa apparecchiature non omologate, in più entra nel muro Vitibizzini, alla fine, sai, per quelle due o tre persone si sporca tutto, iniziano i controlli e succede un casino. Quindi è meglio, anch'io l'altra volta l'ho detto, cioè cercate di non parlare male, perché si sentono un po' di parolacce lì e non va bene. Sì, me lo stava dicendo Graziano, c'è questo Vittorio, questo nuovo, poi non so se ci sono bambini o se ho qualche figlio di questo, boh, non lo so, perché io non lo sento, la verità, almeno io non li ho sentiti dicendo parolacce, però mi ha confermato Graziano che gli stavano dicendo parolacce, poi l'ho sentito anche da Gio Maria che le stava sgridando, che non si dovevano dire parolacce, mentre io a loro non le sentivo, questi evidentemente è così. Sì, è un peccato, anche lì sarebbe veramente un peccato, il PMR tutto sommato lo stanno rovinando facendo così. Speriamo bene, solo che non capisco perché certi non debbano venire sul nostro canale qua, sul canale di tutti, non sul nostro canale, canale di tutti, e parlare tutti insieme, no? Invece tutti frabinati, due da una parte, due dall'altra e così via, e no, non va bene, e la frequenza sta andando in malora, solo per cosa? Per l'ignoranza delle persone, e così non va bene, io non ce l'ho con nessuno, però al suo tempo non sono nemmeno molto, molto contento, per il semplice motivo che poi tra l'altro qualcuno compra anche sempre apparecchiature anche del recente e poi non lo utilizzi. Ma cosa te ne fai allora? Sì, d'accordo, mi dirai, ma i soldi sono di loro, d'accordo, i soldi saranno loro, di loro, però che senso ha? Non capisco che senso ha andare lì e rompere l'anima in PMR quando possiamo parlare benissimo al barattino, tutti quanti. Oh, ci vado anch'io nel PMR, ma solo quando, esclusivamente quando non sento nessuno nei 27. Se è per stare completamente muto anch'io, allora tanto male anch'io, entro lì, salutare a Marino, alle volte lo saluto in sovrammodulazione, agli altri, a Marino, che con Marino ci sentiamo a bomba, per cui sovrammodulo tutti. E così, ecco, lo devo dire. Vediamo se è diventato Gianni. Ehi, stavo cambiando solo apparecchio, dai, per farti girare, perché se non ho un po' che andare. Non lo so come mi ascoltate con questo qua, che tu sei il Cobra. Io ti sento bene. No, anche qua arrivi bene. Un pochino più basso, 9,20. Claudio, come mi ascolti con questo? Metti il gioco di Zenit, ho detto 9,20, un pochino più basso di segnale, ma la radio è buona. Te lo ricordo che mi sentivate basso di radio con questo qua, era perché c'era il mic gain al minimo, non me l'ero mai accorto, siccome questo qua c'ha tutto quanto tramite, come si chiama, devi andare tutto quanto, ma adesso non mi viene, vabbè, ci sono in basso. Devi andare nel menu, capito, per fare il tutto, quindi non mi ero mai accorto che fosse basso. E ho tutto regolato adesso dovrebbe andare bene, dai. Anche i batteri sono regolati. È perfetto, 9,20, la 10,5 è perfetta, sì, me lo ricordo che prima era basso. E Giulio, una scelta, ti ricordi? Lo sfruttamento è stato fatto volontario, non involontario, andare nell'altro canale, e poi lì sono rimasti, no, ti ripeto, a me fa piacere se parliamo tutti assieme. Io qualche volta entro anche a salutare il 23, non è, non c'è niente con nessuno. È un sistema PMR, è un sistema così di prova, e invece è più frequentato rispetto alla 27. Beh, sono delle scelte che si fanno, però ripeto, lì bisogna parlare in una certa maniera, educatamente, ma a giovedì bisogna un bel di vicinetti, un bel. Poi giovedì, prova a metterti giovedì tu in PMR, se ne vuoi che vedi, è tutto pieno di cacciatori. Tutto pieno di cacciatori, ma io li sento a bomba lì, perché essendo in alto qua, li sento, ma anche quando sono in campagna col portatilino, io li sento lo stesso, perché sono due zone molto alte, e loro sono lì nei costoni, capito, di Osilo, di Orsi, di Tissi, di Uri, di Usini, e nella parte alta di Sennori, capito, e quindi li sento un bel forte, è tutto pieno, il giovedì, la domenica è tutto pieno di cacciatori. Allucinante, da poco ne abbiamo sgamato, erano in quattro mi pare, addirittura stavano parlando sull'R0, non si capiva molto bene la modulazione, ma siccome l'R0 è un ripetitore, continuavano a eccitare completamente il ponte, tu eccitavano il ponte, una cosa pazzesca. E un amico di Uschi, un radioamatore di Uschi, si è accorto, li sentiva parlare senza nome attivo, senza niente, e gli era detto, guardate qua siete in una frequenza amatoriale, sparite immediatamente perché sto chiamando i carabinieri. E non si sono più sentiti, per dirti, cioè, ci sono cose che... Questa vendita di libera vendita dei portatili, VHF sta facendo un po' di danno un po' a tutti, sia nella parte PMR, LPD e VHF amatoriale, perché anche il PMR è stato assegnato a noi, però mi sembra che ce l'hanno cani e porci, senza bagare nulla, quindi senza bagare i 15 euro come te paghiamo noi, le 12 euro, quante voci, o 15, adesso mi ricordo, ho fatto il primo, non mi pare sia 12 o 15, no 12, vabbè, comunque, capito, noi paghiamo per avere quella concessione in più, invece gli altri andano, si compareggiano a portata e si vuole a farsi le battigioni. Sì, è vero, lo so, purtroppo è così, sono di libero accesso a chiunque, per cui si sa, se lo comprano magari con una certa potenza, e quando si va lì, tu essendo in alto, loro sono in alto ugualmente, ecco che tu li senti per quel motivo lì. Sì, in effetti è così, ma lo sappiamo, che purtroppo ci sono le persone scorrette, ci sono un po' dappertutto, per cui non c'è da meravigliarsi se magari sentiamo delle persone che dicono parolacce o che si intromettono, ecco come hai detto tu, quando se ne va a Usilo e si mette sotto il ponte che c'è lì a Usilo, è chiaro che lo eccita, anche se magari non hanno messo il CTS. Io penso che sia così, o qua sicuramente succede così, per cui dà fastidio, certo che dà fastidio, si mangia tutta la monte di R0, è chiaro che a un certo momento lo ricciti, anche se non sei agganciato proprio perfettamente. Io penso che sia così. Avanti Gianni. Ma ci sarebbe che quest'anno stiamo per non pagare la tassa? Stavo per vendermi tutto il CB e basta. Poi ho detto che non mi va a voi, magari mi ripeto perché rientrano e poi non c'è più nulla. E allora l'ha capito come sta, ma tanto non mi devo finalizzare, ma tu mi girerà là, non li posso pagare. No, già non conviene, io lo stesso. Poi giro all'anno. E poi ho 72 io all'anno, in radio, in concessioni, in balle e poi va. E le antenne non le conti qua c'è sul tetto. E cosa fai? E ne togli tutto, beh, poi ti capita che ti piace farti un quesciolo da un'altra parte, non lo puoi fare. Io tolgo le direttive perché non le uso, perché un capitale mi è costato una barca di soldi, ho più di 3.000 euro sul tetto. Le tolgo, le conservo, non le vendo, le tolgo, le conservo, abbasso il sistema, le stacco, le pulisco di nuovo, le metto dentro le scatole. Se capita, vuol dire le ripiazzerò, non qua, però le volevo togliere, perché se disgraziatamente vengo a casa mi tocca fare un casino poi, capito? Le tolgo e lascio la Mantova con una bimanda VEU, capito? In modo che poi sia più facile, mi viene più facile togliere le antenne. Io ho speso 120 euro per far fare solo le calate dei cavi, con l'autoscala, figurati, c'è un lavoro allucinante, bucato con l'autoscala a 8 metri di altezza, bucato il pluviale, il tubo dell'acqua, chiamiamolo così, messo una finestrella, è tratto un tubo in polietilene di quello elettrico grosso da un pollice e mezzo, tutti i cavi passano lì, poi entrano dentro la finestra, c'è un lavoro, quindi quella roba lì è da togliere tutta, è da togliere e lasciare solo due cavi, in modo che poi li sgancio, li tiro su e abbasso le antenne, e quello lavoro che faccio solo, ma per staccare il mio impianto ci vogliono 3-4 persone, non è buccia di gioca, perché faccio l'anno e mi faccio male, capito? Si considera che la tirata su Pino con Luca Flipper a Nani Brazzi e io sotto in tre, abbiamo dovuto puntellare per tirare su il sistema. Quando c'è un sistema del genere ci vuole forza. Quindi per abbassare, una volta che sganci, devi tenerlo con le braccia e piano piano farlo scendere. Se sgancio me ne va da tutto in alto, mi scende il deccio. Quindi è un lavoro che farò, infatti Tino lo sa, appena arrivo al tempo buono, viene anche lui e mi dà una mano. E quelle le stacco, le pulisco e le conservo. Però vendere le radio, ma nel mondo e nel modo più assoluto, per me se manca almeno una radio, due radio da poter chiacchierare, è una grande paranoia, vai giù. Beh certo, no, non ne vale la pena, intanto anche se uno se li vende, incassa qualche spicciolo così, tutto sommato, già, che te lo può fare a vendere? Tu le paga tutta quei soldi e poi alla fine che cosa ne ricavi? Poi non è che hai bisogno di quei soldi, lì no, al limite te lo conservi e poi domani sai che hai fatto questa attività e ti viene in mente magari di attaccarlo e di vedere, sentire se c'è qualcuno in frequenza per scambiare quei due chiacchiere. Io addirittura l'ho fatto ripristinare, la radio mia l'ho fatta ripristinare, ma l'ho fatta in maniera egregia veramente, è diventata praticamente, anche se è una radio che ha 25 anni o quanti ne ha, però è eccezionale, va benissimo, è perfetta in tutti i sensi, in tutte le frequenze. Figurati cosa vuoi a vendere, per darmi i soldi di una pizza, ma vai, ma nemmeno per idea, guarda già, li prendi. Cosa il 440 fatto e allora il 440 è stato rimesso a posto perché aveva dei problemi, aveva, per cui l'ho dato a Fabrizio e Fabrizio me l'ha sistemato in una maniera esemplare, proprio perfetto, ma veramente perfetto, guarda. È stato gentilissimo e soprattutto molto molto preciso, ha fatto un lavoro molto accurato, tranquillamente, oltretutto anche grazie, non ha voluto un centesimo, nonostante che ha messo anche del materiale, i condensatori che ha sostituito eccetera. È stato veramente un amico veramente in gamba. Sì, ma c'è l'attrezzatura, non è questione di... è bravo, non bravo, di più, ma non solo in elettronicamente, meccanicamente non ce n'è più nessuno, perché il sistema mio chi l'ha fatto? Non l'ha costruito lui. Io ho la gabbia in acciaio inossidabile, che se vai a comprarla uguale, la vende la Prosister uguale, però in ferro, in ferraccio, che la base valeva 180 euro, prima l'ha fatta uguale a quella in acciaio inossidabile. Il mio sistema è il sistema che aveva lui, fa lui ed è eterno, mai avuto un problema, assolutamente, assolutamente. E io ne ho due radio riparate da lui, sono già 3 anni riparate, mai avuto problemi. Quando ho chiamato Bianconi mi ha detto no, si può riparare, sì sì, domani. Ma io a Giulio gli ho dato quell'input ed è così, alle mani d'oro, non ce n'è per nessuno a bufandici. Quando una persona va a elogiare si elogia perché è la pura verità, è bravissimo, lo fa per hobby, ma è un hobby che ci mette tanta tanta passione e lo fa veramente con un criterio eccezionale. E anch'io già, nel 440 purtroppo sono radio anziana, io già la seconda volta che l'ho, la prima volta ho riparato Fabrizio, la seconda volta tramite un amico l'ho mandato a riparare fuori e me l'hanno riparato. Sempre il solito problema, condensatori, la parte appunto VCO, quelle cose lì, puntini eccetera eccetera. Una volta riparata dura 5-6 anni, l'importante è che si usi, perché ad esempio quello del bilancio, anche non usandolo, era perfetto, perché? Perché l'ha custodito bene, non deve prendere umidità, lui l'aveva messo dentro una scatola, capito, quando non lo usava più, dentro la sua scatola, che tra l'altro c'è anche la scatola, dentro la sua scatola col polistirolo coperto con un panno, è conservato in un punto, dentro l'armadio praticamente, dove non prende umidità, condensa, fumo di cucina eccetera, capito, non deve prendere umidità. E quando l'ho aperto, io l'abbiamo aperto, era perfetto dentro, però mi hanno fatto un check up ed è risultato tutto ok, e quindi lo lascio stare così per il momento. Se dovesse creare problemi so dove portarlo, non ce n'è problema. Avanti Giulio. Ok, appunto, beh certo, no, ma la cosa più curiosa è stato per sottolineare la gentilezza di quest'uomo, o Gianni, addirittura è venuto, l'ha preso lui, non c'è stato bisogno nemmeno di portargli lui, è venuto, l'ha preso lui, se l'ha tenuto un giorno, l'indomani dopo un giorno me l'ha riportato sempre lui. Cosa vuoi che ti dica? Cosa gli vuoi dire a una persona del genere? Più gentile di così, guarda, non è possibile. Ho già fatto, ripeto, che ha fatto un gran bel lavoro, ma veramente bello. Tu pensa che mi aveva spedito via WhatsApp la situazione come la prima all'interno, no? Dove c'era tutto quell'isolamento qua. Era tutto nero, praticamente quell'isolamento aveva perso tutto l'isolamento, l'aveva perso. E cortocircuitava tutti i componenti, quell'accidente lì. Me l'ha restituito pulito, sai cosa vuol dire pulito già? Come quando è nato. È veramente perfetto, guarda. Posso garantire, funziona bene dappertutto, in banda laterale, in FM, in LSB, USB, dappertutto. Funziona veramente bene, Gianni. Veramente bene. Riprendi. Cos'hai toccato? No, mi sono allontanato perché ti ho udito parlare sempre con il microfono amplificato, adesso forse. Non ti allontanare perché non ti sentivo più, eh. Adesso abituato al microfono amplificato, mi ero allontanato con la bocca. No, in gamba in tutto, ma meccanicamente anche con le moto, restaura moto, macchine, ha comprato macchine, li ha fatte completamente in genere, io solo che l'ha già. Da ripresi tutte da capo, mi faccio il punto di giugante, non me lo dico, ho visto lavori fare perché le gabbie, le tralicce, quelle cose le ha fatte tutte lui. Ma ha cambiato il frequenzimetro dal 4 al 30, ho detto, ma la buttiamo, ce la vedi, ma cosa ne va, intanto la vedo, no, deve funzionare come dico io. Se l'ha presa, se l'ha tenuta un po', ha ordinato il prezzo agli Stati Uniti, ha messo il frequenzimento nuovo al 430, tu devi vedere, è nuovissimo, nuovo, capito? Vabbè, una passione, ma io ho un 275H lo stesso, non si poteva riparare, lui me l'ha riparato, della ICOM, il base VHF, da prima ne aveva 80, arrivata adesso ne aveva 120, è perfetto. Chi è che voleva entrare sul canale 10? C'era qualcuno, ha detto qualcosa, non ho capito che cosa. E vabbè, a ognuno suo, Gianni, a ognuno suo. Quando uno sa di poter fare determinate cose, le fa con passione, con voglia e con soprattutto molta attenzione. Ma io questo l'ho aperto, come appunto mi diceva, mi aveva detto anche lui, e l'ho tutto pulito con la trilina, proprio trilina, tutta la parte dei condensatori per vedere se ce n'era qualcuno che stava già partendo, sono tutti belli lucidi e la radio è perfetta. Proprio quella parte lì che ti ha mandato la foto a te Giulio, tutta quella parte lì. E ho tutta pulita con la trilina, c'era un pochino di polvere, tutta bella pulita, soffiata, la radio è perfetta. E, diciamo che è più nuova di quella che ho dato. Più nuova perché l'ha usata poco Pinaccio, l'ha usata molto poco, eppure è la mia questa. Questa c'è anche la scheda Phonem che tu non hai. 7, 5, 0, 0. Questa è anche la scheda Phonem, tutti i filtri, questa è la completa perché la usavo anche in mando amatoriale. È completa. E vabbè. Avevo letto Giulio che era morto Pinangelo, sì. È morto Pinangelo? Oh, lo sapevo lo qua. E quando è morto? L'anno scorso. Che si sa. E pensare che io tempo fa ci stavo pensando, quando mandando che ero, non si è sentito più Pinangelo, eppure era uno che sembrava abbastanza appassionato alla radio, e non si era più sentito. Boh. Adesso mi sta dicendo che è morto. Ma l'anno scorso quando? Così, adesso vicino a Natale o molto prima? No, molto prima. Purtroppo aveva impostato il mio numero di telefono vecchio lui, quindi la moglie mi ha chiamato per avvisarmi, però non, il telefono dava sempre numero inesistente, capito? E quando l'ho saputo era troppo tardi. No, vabbè, comunque la roba sua è qua. È tutta qua e non uscirà mai più da qua, come le altre cose che ho detto a Gianni. E questa è la radio che aveva lui. La radio che aveva lui, capito mi hai? Avanti già. Non era simpatico, ma pensava che radio, io un Pinangelo ho vissuto anche periodi quando stavo ad Alghero nel periodo estivo che ero ragazzo, da mia sorella e da mie sorelle, da mamma perché c'era casa anche ad Alghero, ed era un piscio, era una cosa che non faceva perché ti faceva morire dalle risate, e c'è un video della moglie che ho visto, mi ha detto te lo prendi, no me ne dare, va a fare il rito, ho detto tienilo tu come ricordo, a me dammi la roba sua che me la tengo e me la custodisco bene, tu tieniti questo video di una festa che hanno fatto lì al circo, ma è una cosa bellissima e poi è vivo, è capito, mi dà, no, non l'ho voluto, la verità già. Break, registrato. Mi a me, avanti il break. Sì, buonasera a tutti, Diabolici per i saluti. Buonasera Diabolici, da dove chiami? Da casa. Dove è Walter? Perché altri ce ne sono. Se sono altri è un'imitazione. Ah, infatti stavo dicendo, ragazzi, sono quello Diabolici, dalla radio non ti avevo riconosciuto, ciao Walter. Mi sentite in compagnia di Gianni Doppio Lu, Claudio e Giulio Donaro. Avanti. Ciao ragazzi, buonasera. Tra poco devo uscire. Ho acceso il baracchino e con immenso stupore, è vero che c'è qualcuno sul canale 10. Ogni tanto con Marco Sgorbio facciamo le prove sul 20, l'altra sera abbiamo fatto, ho provato una ventina di baracchini, è entrato anche Tino Muscolo, niente po' di meno che lui, figurati. E Occhi di Gatto invece manca perché purtroppo è sceso un fulmine e si sta sistemando la stazione, come sapete tutti. Ciao Giulio Dollaro, buonasera anche a te. Ciao Walter, bello ascoltarti dopo tanto tempo. Va benissimo, è vicino di casa. Non so se sono io vicino a te o tu se sei vicino a me, forse sei tu o sono io vicino a te, no, non tu, tu ci sei da prima di me, qui a Ripunti, per cui sono io vicino a te, non tu vicino a me, anche se ormai ci sono 47, quasi 48 anni io qua, praticamente dal 1971, sono in questa casa ma sempre abitando qui a Ripunti, quando prima ho fatto 30 anni, 32, 35 anni nell'altra casa dove ero prima. Sì, sì, va bene. E abbiamo saputo di Fabrizio. Mi dispiaciuto tanto, veramente. Non se lo meritava, non se lo meritava. Quella è stata una disgrazia veramente, Walter. Dipende, vai, fai girare tu. Quanto so io ha bruciato l'impianto elettrico, basta, così. Fa dei balle. La casa intera per poco, ha bruciato tutte le radio, tutte le antenne, la cucina ha preso fuoco, per poco scoppia perché c'è il gas, c'erano i pompieri fino alle 2 di notte, per un casino è successo. E se era in stazione sarebbe morto, perché la poltrona dove si sedeva è andato lì il fulmine e l'ha sciolta. È stato un danno come pochi forse. Va bene, è meglio che sia successo a lui, è meglio a lui che a me, perché se succedeva a me io non so fare un cazzo, lui invece almeno sa fare le cose. Avanti Claudio. Ciao Padre, ben riascoltato. Vabbè, avete un po' di pina hai seguito? Vabbè, è andato bene. Gianni, è andata veramente bene, se vedi le foto ti spaventi, metti mai in testa, è il piatto elettrico che ha bruciato a gas e apparecchiature con un danno inestimabile, tanti quattrini, tanti, ma tanti veramente, mi dispiace, è chiaro che dispiace. Vabbè, non ti ho mai sentito così bene, padre, cosa hai messo, il turbo? No, sono... Guarda, questa radio, questo baracchino, come lo vogliamo chiamare, è andato, va benissimo. Se lo usi tu, rompe il culo anche il 440 e gli altri, perché ha delle peculiarità pazzesche. Io non sto facendo niente. Ma esce bene in tutti i modi di emissione. Esce con 200 watt anche in AM. E senza, adesso sono a manetta, sì, 200 watt, senza distorcere niente, per dire. No, va benissimo questo baracchino, è un baracchino eccezionale. Poi mi sono scaricato quello della chat, come si chiama, quello Cibitalpi, e ieri notte ho sentito Alessio, ma cazzo mi ha fatto cagare dalla risata, dice che i brasiliani l'hanno preso a pesci in faccia, ed era disperato. Invece pensavo di aver stato dritto per la convergenza, invece mi sembra che sia rimasto uguale. Sentito l'altro giorno, c'era anche Marco, l'ho sentito, vabbè, ma lui è sempre fuori convergenza, ci vorrebbe un po' di equilibratura giornaliera, solo che non riesce a equilibrarsi, è lì il problema. Non esce veramente bene, segnale 9.15, quasi 9.20, la radio è eccezionale, veramente, non ti ho mai sentito così bene. Ok, noi siamo sempre sul 10, sempre, oddio, ci telefoniamo come fai tu con gli altri per accendere questo cacchio di baracchino, perché anch'io sono assente, ho altre cose da fare, non è che ne abbia molta voglia, anche perché non c'è mai nessuno, siamo sempre io e Giulio, Giulio e io, adesso c'è Gianni che è nuovamente in ferie, se no anche lui non c'era perché lavora di sera, e basta, non c'è mai nessuno, quindi a Ravvini. Cosa ne fai? Avanti Giulio, riprende e fai girare per Gianni. Ok, se in effetti è così. Sì. Se faccio vocale lo stavo dicendo anche a Gianni, che ho sentito a Salvatore Branca, ho sentito dall'Austria, due volte l'ho collegato lì su Cibitoco. una quindicina di giorni fa, forse anche di meno di 15 giorni, due volte l'ho collegato, per cui no, è una buona applicazione, però io no, sono sempre per il barattino, non solo per quell'applicazione. Infatti io per gli amici di Stati ho detto, quando noi dobbiamo parlare sul CBTOP andiamo sulla CH, andiamo cioè sulla versione canalizzata, ci mettiamo su 14 e così possiamo parlare come se fossimo al barattino. Solo che cosa vuoi, due qua, due là, due in PMR e qui siamo sempre soli soletti, per cui non, la frequenza sta andando a malora. Pazienza, e cosa ci vuoi fare, guarda, il tempo è quello che è e ce lo prendiamo come viene. Avanti Gianni. Sarebbe stato bello se magari noi parlavamo qua su 10 e potevi sentire anche la città canale 10, potete sentire a noi, potete parlare anche con i baracchini, capisci? Sarebbe stato bello così, perché non ci vuole antenna, te lo metti in macchina, capisci? E quello è buono, perché non ci vuole antenna, ma lo stanno facendo anche i microfoni di quelli con le, come si chiama, Bluetooth, eccetera, eccetera, per questi telefoni, quindi la Midland non è che ci perde mai, sta facendo accessori per questa app che hanno messo, stanno facendo studi accessori. Vabbè, ma vai a prenderlo tu con l'accessorio che costa 130 euro. Ascolta, Walter. Sì. Allora, ti ricordi che ti ho detto del control box? Ma come mai non gira all'interno, quindi il segnalatore non segnala, però l'antenna te la muove, come mai? Da che cosa? Dall'alimentazione che arriva su al rotore? No, non lo so, Cla, non lo so, bisogna dirlo a Fabrizio, a me lo dici tu, lo dico lui. CBTalk è un'applicazione che prima o poi sarà a pagamento, secondo me, e hanno fatto quel microfono due vie, perché tu parli con l'Alan 48 che deve essere quello predisposto per quel microfono, ecco il wifi colleghi anche lo smartphone, dunque usi il microfono e puoi parlare in tutte e due le direzioni, capito? Giulio ha ragione, perché è sempre un VoIP, è sempre una telefonata alla fine. Solo perché me l'hanno studiata è una cosa positiva, quando sei fuori in un altro country è come il sistema DMR della radiazione, che apri le room, le porte, non la sei già, né tu ormai sei e vai al punto giù, capito? Ma è sempre freddo, non c'hai gli apparati da banca, adesso quello che faccio è prendere gli apparati per qua, stavo malato. E tu metti un bracciere vicino. Un po' di sopra. Cosa ti ho voluto fare già? Ti ho detto, a me mi piace vedere, quando sto parlando mi piace vedere la stazione. Ti ho detto, dimmi il telefonino, ti bocci vicino alla stazione, apri la stazione e parli al telefono, no? Guarda se è cambiato il segnale così, se va meglio. Era massa e te ne varia. Perché? 9.25 quasi 30, sì. No, adesso ho girato male. Ora. Che apparato stai usando, Walter? È un come si chiama? Midland 7007, il Midland IC 7007 della Icom. No, siamo Ehi, sugar. La radio amatoriale, l'Icom 7007. Allora dice è chiara ma non è tanto forte, dico la verità, io la sento molto chiara, però rimane leggermente bassa, non è una radio forte. Se poi vuoi sentire radio come si deve, attacco il Galax. Ne ho due, li uso come cozze quelli. Scorpio ce l'ha preso un altro, non mi è tanto bello. Ehi, ne ha due anche Scorpio. Mi ha fatto bene, intanto Antonello non lo usa, nuovo, gli ho fatto comprare io quello Antonello. L'ho fatto comprare io, 150 euro, gliel'ho dato, lo stesso prezzo, la verità. Molto bello, nuovo. E che Antonello propone? Allora, nuovo, lui stava cercando uno, solo c'era in vendita 200, 250, a me me l'avevano detto, ho detto guarda che tizio, per non dire chi è, lo sta dando 150 euro, nuovissimo, guarda, nuovo, vai e prendilo immediatamente, diretti a Marto, io andato e ce l'ha comprato, ma nuovo, Se l'ha comprato Marto già, dove stupido. Va bene, comunque il segnale è buono, mai detto, adesso riabbasso perché tanto non ha senso. No, se non vuoi quasi 9.30 watt, se poi tra 9.10, 9.20, 9.30, non accettare così, io sono a 10 watt col 4.40, sull'interradio, ma l'altro giorno stavo usando il DAC, che uso il 48, e i baracchini già ce li ho anche io, però io sono appassionato a questo, a volte accendo il 4.30, mitico, ti ricordi? Sì, 4.30, quello mi hai dato tu, ce l'ho sempre, che Fabrizio mi aveva cambiato il display perché si era bruciato, e c'ho anche quello, non me la fotti più nuda, però 27 ne avanza. E io ce l'ho il 4.30, tutti ce li ho, però questo è quello che va meglio. Com'è il segnale? C'hai picchi da 25 a 30, ma ce l'ho così, va bene, ottimo, vabbè sei un po' rauco però si sente che ancora non ti sei rimesso in sesto. Non so bene, va bene, dai devo uscire, poi più tardi sarò con Sgorbio, forse sul canale 20, con Marco Sgorbio. Ciao Walter, ciao, comunque 20. Ecco, adesso hai messo il Galaxy, io ho alzato un po' il mic again e si sente il televisore, per quello lo tengo basso, se lo metto così è troppo esaltata la modulazione, dunque io lo riabbasso e va bene. Anche io sono con il Galaxy. E ne ho due anch'io, quelli che hanno 240 canali. E uno te l'ho venduto io, i 20 audio. Quello l'ho dato a Marco Sgorbio. Cavolo, ecco, lui l'ha messo bene, ecco, lui era nuovo. Guarda, questo è il 756, qua differenza c'è dal 440, più bassa la modulazione. Va bene lo stesso. C'è niente a fare, Spagliero, c'è la mitica voce. Questo è il 756, il figlio del tuo. Sì, no, ce l'ho anch'io il 756 Pro. No, non il Pro, quello è il 756, scusa, io ho il 751 America. 756 non ce l'ho più, c'avevo il Pro 2. Poi c'è bene anche quello. Va bene. Se voglio usare anche quello della IC, ma è sprecato una radio del genere usare la 27, però vabbè. Va bene. Ricommuto al 440. Vai Giulio, Gianni, un abisso. Questa modulazione, io te l'ho sempre detto e te la vanterò, è la più bella modulazione per me dei baracchini, degli apparati CB in 27, non HF, quindi al di fuori i 440, 140 e così via, però dei baracchini che parlano in 27, questa è la modulazione che a me piace di più. Vai Giulio. Ok, confermo, ma io l'ho sempre detto che il Galaxy come modulazione è bellissima e mi è piaciuto sempre molto a me. Certo, no, io sto andando con un'antenna autocostruita tipo di Polo o Vapen, però in verticale. Praticamente ho rispecchiato le caratteristiche della Game Master e ce l'ho bassa, nella parte bassa della casa, in facciata praticamente ce l'ho in terrazzo con 1,20 m di palo, non di più. Il matubatubo che avevo prima l'ho tolta perché la notte era in alto quella era dall'altra parte, nella parte di dietro, praticamente si mette più in alto di come c'è questa adesso. E l'ho tolta perché la notte quando soffiavo il vento, grazie a te, era un tormento, fischiavo nel radiale in una maniera impressionante. Allora ho optato per questa, ho preso una canna da pesca e un po' di filo, un po' di cavo coassiale H155 e ho tentato di costruire questa Game Master, dai, così, e mi è riuscita al primo colpo, va benissimo, su tutta la banda della 27 va benissimo, anche niente stazionario, insomma va bene, ecco, va benissimo, ce l'ho già un anno e mezzo più o meno piazzata, vuol dire, non l'ho più tolta, avevo messa lì per calibrarla col Roswell, cioè per eventuali stazionarie, non ce n'è stato bisogno perché è andato bene al primo colpo, avevo preso tutte le misure dal computer, avevo preso e ho fatto specchiato esattamente con le misure e l'antenna è riuscita al 100%. E anche anche poc'anzi ho controllato le stazionali, è sempre 1-1, 1-2 quando poi allargo la banda, la salendo verso su. Va benissimo, però è bassa, ma mi accontento perché mi sentono tutti, sento tutti, perciò non ho altre pretese. Mi prendi, Walter? No, va benissimo, io se non lo dicevi mi pare che è lo stesso segnale di sempre, non vedo differenze. Ma no, va bene, io non l'avrei tolta lo stesso, l'altra, se fischia lasciala fischiare, a me non mi fregava niente. Ormai la senti pure, io a casa mia se ne cade anche il tiravici e tutti gli alberi non sento niente dentro, non mi rendo conto del rumore, forse perché è muri troppo spesi, molto ambientata, non me ne rendo conto. Comunque, questa funziona bene. Più tardi sarò sul 20 con Sgurbio se c'è. Devo uscire perché è arrivato Gianni e devo dare da mangiare ai cani. Dai, ci sentiamo più tardi. E via Walter, dai. Buon corretti, ci sentiamo, grazie per il piccolo questione. Ciao, sempre giù nel negozio alimentare, sì. Centro commerciale. Allora stai bene lì. Sì, sto bene e sto male. No, ho dei problemi adesso a casa. E non sto tanto bene, va. Andiamo avanti con gli anni, anche tu ci avrai più di 30 anni ormai. Ne ho 31, ne ho compiuto 31 da poco. Tutti lì siamo. Poi sono sempre meno questi GB, questi allenatori, che stanno morendo lungo. Ma io non so, soprattutto gli assenteisti, quelli sono già molti perché non li senti in radio, questi siamo molti. Dicono che sono molti, c'è. Poi li riferimento puramente a casa. Ciao. Io non sono cassetteista, almeno in una settimana gli mai faccio sentire due o tre volte, non tutti i giorni, ma comunque già ci sono. Ciao Padri, ci sentiamo, fatti ascoltare, dai, poi già sono anche in voi io, adesso tra un po' mi sistemo a Pippo e poi sono veramente in radio. Vai Giulio. Ok, ciao Walter, grazie per essere entrato a salutarti e soprattutto per cambiare quattro chiacchiere. Fate sentire però ogni tanto, guarda, la sera noi, bene o male, non dico da presto presto, però dalle 6 in poi, dai, grosso modo ci trovi sempre su questo canale. Ciao Walter, ciao, salutoni, alla prossima, grazie ancora. Avanti Gianni. Ciao Walter. È il museo della CB, ampliato l'hai? Ne ho tante già, ma non c'ho orgoglio, non me ne frega niente. Quelle radiamatoriali ne ho troppe e non me ne frega niente. Ho preso qualche apparecchio nuovo, ma ne ho io più io di un negozio, cosa non me ne frega niente. Mi piace, mi sto dando un po' alle auto, perché mi piacciono le auto, questo facciamo raduni e queste cose qua. Ah, ma cosa, l'auto d'epoca? No, d'epoca non ne ho, c'ho la 500, una Mercedes SL, no, auto moderna, sportiva. Ah, vabbè, dai. E lo sai cos'è, che con l'andare del tempo, quando c'hai anni in più, ne hai meno voglia di fare tutto, dai. L'ho appurata anche io, però la 27 mi è rimasta sempre nel cuore e sempre la porterò avanti, si la grande un grifo, poi magari viene Claudio e ci prende tutto. Com'è? Lascio, piglia tutto. Vabbè, sono cose che capitano. A me non gli viene bene, potrebbe cambiare casa, non si sa. No, non ci vado io ai funerali aspettando che ci siano le donazioni. Va bene, comunque è meglio che vado sempre all'ora degli amici, forse vende la famiglia per fare qualche spiccio. Va bene, ci sentiamo, Franco. Ciao, già mi hai capito, no? Vabbè. No, ma è così mio, oggi è così, con io prima ero molto più frequente, no? Sapete. Poi dopo la sua pensione è chiaro, ti dedichi a fare altro e un po' ti stacchi, però non è uno stacco definitivo come hanno fatto molti. Io ci sono perché mi piace fare radio, poi che la fai qui o la fai da altre parti non cambia assolutamente niente. però è bello fare radio, sentirsi, scambiare due opinioni, due chiacchiere, tanto per quelli che ci sono. Come ho detto prima, siamo sempre qui 2 o 3 in questo canale, poi altri 2 o 3 sono sul 23, insomma siamo in 6. Perciò è così. Vabbè, va bene lo stesso, l'importante è che ci siamo. Ui ui ui, caro Giulio, sta di nuovo piovendo e mi sa che anche domani non facciamo niente qua, non facciamo niente. Abbiamo buttato 2 ore a posizionare la chitarra, questa 43 metri per fare più giri alti. Mi sa che domani siamo punti a capo. Oh, domani dice che ha messo neve anche a 200 metri, della zona di Sassari. Figurati a me che sono a 300 e rotti. E altro che non sono andati, avanti mi pare. Sono andato presto a Monte Oro, era sotto la parte lì, alta, perché sono a 50 metri il ripetitore, quello della Rai, quello alto che si vede, da tutto Sassari, era tutto bianco, io mi vedo anche buco di mezzo all'erba. L'altro giorno, adesso ci sono portato il terzo, di mattina era ghiacciata l'erba, era tutta bianca. Io vabbè, perché tu c'eri presto già, io Filippo prima di 9:30 non esce, adesso mi guarda, sono già le 7:20 passate, ancora è tutto coperto, perché la sera nel lettino vuole mettere il plaid suo, e c'è il suo plaid, capite, tutto coperto, ci vede solo la testa. Domani mi discende a dirle, io andiamo a fare pipì, tu manco per le scatole ne passa, è un gatto randagio lui, lui sta sempre lì con il gatto, il calluccio a 2 metri dal termosifone, non era frutti nulla, è come che non ci sia, qua, ma vai a portare in campagna, un bicipero di bene, tu lo cerchi e non c'è mai, lo fischi e non ci viene, poi accudi alla giura. Chissà dove che va, ma è tutto recintato, quindi non esce, perciò sono tranquillo, ma chissà cos'è che ha trovato da. Gente amara. Accuditi, mio Fabrizio, buonasera. Ciao, buonasera, ciao Gianni, ciao Claudio, ciao Giulio, ben ascoltati, avanti qua. Oi Fabri, ciao, buonasera, ben sentito, ma se ti mando avanti Giulio, ma c'era qualcuno che ha pigiato la portante bassa bassa, vediamo giù chi è, avanti. Ciao, le castagne nascoste. Ciao Fabrizio, ben entrato, dopo tanto tempo. Fabri, ci stai trascurando, ci stai trascurando, gli amici della frequenza. Non ti stai facendo più sentire, cara Pettina, io capisco che hai i tuoi impegni, indubbiamente, però ci stai abbandonando, mi fa brilli, aiuto, dai, mettiti a piombo un pochino. No, già, sono tutti d'accordo, già che io ci sono sempre in radio, cioè all'ascolto, quasi tutti i giorni, non sono a casa, ce l'ho sempre, capito? Se c'è preparazione, magari faccio una spatolata in HF, dipende. Ma poi mi hai pizzicato e stavo cambiando radio, sto andando col DAC. Sto andando col DAC e mi più 5, mi accoppiate, sì? Cappa! Mi arrivi bene, la lavorazione è un po' più bassa, però non è come quella là, però già va bene, avanti giù. Sì, confermo anch'io, va benissimo qua, non ci sono problemi, a voi siete sempre alla grande, non ci sono problemi. Beh, allora Fabri, cosa ci racconti, dai? Raccontaci qualcosa dopo tanto tempo. Siamo incuriositi, o meglio siamo curiosi di sapere cosa stai combinando, non dei fatti tuoi personali, chiaramente ci mancherebbe altro, ma nella vita di tutti i giorni, quello che così tanto per scambiare quattro chiacchi. Giù, niente di particolare, sì, tre cose, capito, niente di ciò. No, già vi ascolto ogni tanto, quando sono qua a casa, già ce l'ho, già accendo sempre, capito? Benissimo, avanti, dottor Claudio. Cappa, ok, cappa di Roger, ma aumentato appena il Mickey Game, va bene. No, vabbè, la famiglia l'ho sentito, anche da poco siamo sentiti tutti. No, non è che... Ogni tanto ce la entra a salutare. No, mi ha adesso detto, ce l'avevo in stand-by, che è quello con il vetro, l'ho fatto un po' scaldare le valvole, adesso l'ho acceso, ho visto che già si muove la Eurosmith e quindi già sta uscendo. Vai Gianni. Ehi, ehi, e beh, Fabri, a piccata è di sì. Sì, ho pescato, guarda, venerdì, anzi, venerdì mattina, in pescheria. No, parte gli scherzi. Ci sta andando? Io ogni tanto già stato, ma no, no, non più di tanto, capito? Ci è andato un mesetto fa, mi hanno invitato per andare questo sabato, ma non lo so, dovrei la risposta. Per il momento non si sta andando più, non sono attivo come prima. Ma c'è qualcosa? Qualche saraghetto, niente di particolare, non è più come gli altri anni, c'è qualche cosa che non va in quel golfo della Ginaia. Ma stai andando sempre lì, al Lido? Io al Lido, poi vado a Sesto Pettine, capito? Quando il mesetto scorso sono andato mio cugino di Isola Rossa, vabbè, dice la casa, siamo usciti dal gommone, a Bolentinari dal gommone, capito? Lui poi è entrato a fare un po' di pesca subacquea, io dal gommone, un paio di saraghetti a mezzo chilo. Già va bene, dai. E in qualche secca vi siete fermati? E lui poi scende, lui si fa un giro con la pesca subacquea, niente più, a me non mi piace, a me piace la sopra. E a me, ma lo sapete, già mi piace la pesca subacquea, una volta che mi sono incazzato, non ci sto più andando, meglio la terra, così almeno scende la vetta, non scendi più, avanti qua. Vabbè, anche quello bisogna, è una bella passione, bisogna stare molto attenti. Vabbè, Fabrizio fa la pesca subacquea anche. Va bene. Sotto vatte, sempre rimango la della radio, non la uso, alle valvole stanno nuovamente andando a farsi fottere, già le avevo trovate per miracolo, cominciato un dolore di vatte, facciamo gli auto d'ora, avanti Giulio. La radio è aumentata adesso. Sì, ho tirato su leggermente il Mickey Game perché ce l'avevo a metà, l'ho messo al massimo. Il microfono ce l'ho a 2, l'MB più 5. Avanti Giulio, ma mi ascolto, è abbastanza chiara, vai. Sì, la radio è bellissima, è chiarissima, è forte anche, perciò non ci sono problemi. Vabbè, il segnale si sa, è un pochino più basso di poc'anzi, ma niente di particolare qua, va bene, a voglia. Che valvole monta a proposito come finale quella radio lì, che valvole monta come finale? Ne ha due, sono molto strette, fini, sono le 6JQB6JK6, che sono molto difficili da trovare, ma io la trovate veramente Gianni Capri 2, ma io la trovate da un suo amico, poi le ho cercate su internet e non le ho trovate. Capito, se non le avrei comprate le avrei messe nuove, perché queste me le ha procurate lui, quindi non sono nuove. Però a differenza di quelle che avevo io che davano 4 watt, questa ne dava 12. Adesso ho visto che il wattimetro mi segna, perché c'ha il Daci, già hai visto gli strumenti che c'ha un wattimetro e rosmetro e wattimetro allucinante, ma anche la tensione della valvola ti segna. La tensione è calata del 30%, quindi sicuramente sono valvole già usate che però non è che sono al 100%, capito? Se le trovo gliele metto nuove, perché come radio deve dare 25 watt, capito? Ne dava intorno ai 12-13 quando le ho montate, adesso è già calata a 8 watt, quindi piano piano cala, anche perché non la uso mai. Avanti Gianni. Te l'ho detto io, questa va bene quella radio, l'ho usata e tutto. Lo so, ma dice che non entrava lì. No, già non entra, ci fa lo spazio. Basta togliere un ripiano, lo vedi come entra. Guarda già, ti dico anche ultimamente, non l'anno scorso diciamo, dopo l'estate mi aveva contattato uno perché aveva saputo che avevo il DAC, mi voleva dare 400 euro e non l'ho data, ma sai perché? Perché intanto non la vendo, perché ho fatto un patto con Daniele me l'aveva data e mi ha detto se la dai non ti parlo più. Ho oppure se te ne devi disfare perché non hai posto, perché non te ne frega più niente, me lo dici e me la riprendo io, capito? Solo per quello. E quindi non l'ho mai data, non l'ho mai data, l'avevo fatta revisionare addirittura tutta bella pulita, ordinata, perché c'era un potenziometro da sostituire che si era inchiodato, l'avevo fatto mettere il potenziometro nuovo, me l'ha fatto tutti pure Andrea, ed è perfetta, nuova, poi c'è degli strumenti che mi attirano perché io già sono un metro cieco e quindi quelli sono strumenti che visibili, capito? Tutto qua. Oh, mi sembra un lineare di quelli radioamatoriali, di quelli autocostruiti che si mangia. No, ma è bella proprio, capito? È bella esteticamente, ce l'abbiamo io, Marco e Walter, con la radio è eccezionale. Penso che sia una delle più belle radio a livello vintage. E poi come classe di radio è la più grande baracchino al mondo, non ce ne sono altri baracchini così grandi di quella stanza lì. C'è il tram, quello che c'ha Walter, che è molto più grande di quello come larghezza, ma come altezza e come larghezza no. Quello è eccezionale. Va bene, avanti Giulio, riprendi, io fra non molto, altri 10 minuti e poi vi lascio a portare il cane. Avanti Giulio. No, io lo rimetto subito il microfono a Fabrizio perché è da un po' in parcheggio. Vai Fabrizio, comunque è veramente bella quella radio, quella radio ci sta bene anche qua, perché in tal caso. Avanti Fabrizio. Ehi, non ti preoccupare, già sto facendo anche altre cose qua. Sì, sicuramente il calo dei passi, sicuramente c'hai le valvole mezzo esaurite come te. Esaurito di vecchi hai? Ah, fate scherzi, potrebbe essere così, quando è così potrebbe essere una valvola che sta andando. Sì, ma tu mi insegni che le radio valvolari, se non le usi, la nodica non ricarica, ma è l'umidità, le cose, va sempre in perdita, capito? Però già l'importante è si difenda, dai. Ok, riprendi allora di nuovo Giulio, visto che hai fatto parlare al mitico Fabrizio, riprendi tu e fai girare, dai. Io poi adesso la spengo questa e riattacco l'altra. Beh certo, non possiamo trascurare Fabrizio, già si fa sentire poco, se poi lo trascuriamo ci mancherebbe altro, ma voi scherzate. È un amico dunque, è un amico che ci sta benissimo nella nostra ruota e l'accettiamo molto volentieri, per cui non ci sono problemi, ci mancherebbe. Sì, non lo so che cosa puoi fare, io penso che per le valvole c'è sempre qualcuno qui in Italia che li vende, tu dovresti telefonare qualche negoziante di elettronica che ci sono in continente, certo non qui a Sassari, ma prima o poi riuscirai a vendere quelle valvole, perché una coppia te le dovresti comprare, almeno una coppia di valvole finali se non altro, perché è un peccato, se poi va andando e abbassandosi ancora, cosa fai? Invece ti compri una valvola nuova, ti compri o due, quante sono, il finale, non lo so, ci sarà prefinale e finale, te le compri tutti e due e così sai, quando ti occorrono ce li hai, la radio è sempre bella intatta, nuova, come sempre, perché io l'ho vista, quella radio mi è piaciuta moltissimo ed oltretutto è nuovissima, per cui è un peccato lasciarla andare. Va bene, dai, riprendi Claudio. Sì, ma infatti no. No, è sempre l'accendo, c'è anche l'antenna attaccata sotto commutazione. Stacco il microfono perché non mi va, lasciarglielo attaccato. Lo metto quando devo parlarci. Però ascolto anche, a volte la tengo accesa anche ore e ore. Ma non è in uso come deve essere, capito? Quindi sicuramente come ha già fatto l'altra volta vanno in perdita, ma attenzione che come ti ho detto prima queste valvole che mi ha valato Gianni Capri non erano al 100%, non sono al 100%. No, ho provato Giulio, ho provato a digitare, no, niente. Qualcuno mi voleva mandare i corrispondenti, ma un amico tecnico appunto mi ha detto che le corrispondenti non andavano bene, posso danneggiare il piede della nodica, ho detto vabbè, la setta ghiche, ho detto abbia dove la radio già funziona, la tengo così, anche se esce con pochi watt, con 5-6 watt, adesso mi sta dando quasi 9, ma è abbastanza affidabile come ricetrasmettitore. Vai Gianni. facendo con nove vattimi, la stessa cosa. Quindi cosa di una 9 a 10 watt va questo qui. Se volevo lo regolavo anche 15, però non mi è regolato così. Mi va bene così. Se poi voglio watt in più si possono sapere bene. Questo in banda laterale, guarda, arrivava anche a 35 watt, 35-40 di modulazione, con le valvole originali quando l'avevo presa da Daniele. In AM dava intorno ai 15-18 watt modulati, era perfetta, perfetta. Anche a 20 arrivava. Poi ho iniziato a calare fino ad arrivare a 4 watt, capito? Alla fine ho... Gianni Teatro Capri 2 mi ha procurato queste valvole e quindi gliel'ho messe, davano 12, adesso ne danno 8, vabbè, pazienza. L'importante è farla andare, adesso la faccio scaldare un po', poi la spengo di nuovo e se la biglia non ci sta col microfono lo rimetto dentro l'armadio. Vai, Matteo, giù. Ok. Vabbè, quello sì. No, io ho le valvole del 25, del Constant 25 biglia, ce l'ho una di ricambio, ma diciamo che lo uso quasi mai, qualche volta, adesso sono un po' di tempo che non l'ho nemmeno più acceso e faccio male, mi faccio male perché magari così si spaccano anche i condensatori e poi alla fine dovrò sostituirle. E ripeto, le radiovalvolari a me mi sono sempre piaciute, la verità, solo che quelli trasistorizzati sono già più pronti, non fai altro che accendere e stai già parlando, per cui poi quando hai ingombrante anche, devo dire che il Constant è abbastanza ingombrante, per cui non lo accendo, non lo metto mai nel tavolino, lo tolgo solo qualche volta tanto per accenderlo, per farlo scaldare una mezz'oretta, ma niente di più. Ma quelle sono valvole che si trovano benissimo, pensa che la finale è L82, per cui tanto ne ha solo una finale, e poi è una valvola italianissima anche, che si trova tranquillamente, a differenza di quello tuo, magari sono valvole americane, sarà un po' più difficile e soprattutto più costose da avere. Vabbè, pazienza. Avanti, Fabrizio. Così, le valvole, più queste, adesso il mese scorso ne ho messo due, ho rimesso due ricevitori, siccome io posseggo diversi ricevitori, quelli amatoriali, amatoriali, di fabbricazione militare, usati dai militari, sia dei militari italiani e sia americani. Il ricevitore del 1931, poi uno del 36, del 54, tutti valvolari, logicamente. Di questi qua molti non accendevano, cioè accendeva però non riceveva, avevo le valvole già viste e le ho dovute, grazie a un amico di famiglia che lavora in America da tanti anni, è un ingegnere elettronico, lui me le ha procurate, proprio originale, quelle che usavano tutte le forze armate militari americane. E vedo che riceve bene, certo, giustamente non è come i ricevitori trasistorizzati di ultima generazione, però all'epoca erano buoni, però è bello sempre avere, a me piace tantissimo, roba antica, roba militare, originale, tutte con le etichette della marina militare americana, con ciò tutta la parte ricevente, trasmittente, c'è il telegrafo, bello. E sono riuscito a mettere a posto, vedo che ricevono bene, adesso deve mandarmi le valvole per altri due. Purtroppo le valvole sono così, si esauriscono. Allora, aspetta, sto uscendo, sì, questo è il 430, questo è il 440, era bello del caldo, l'ho spento, ho acceso il 430, poi mi dite se sto andando bene come l'altra, ma non cambia niente assolutamente, anzi questo è sulle, è acceso, le picchia da 20 a 50. Ok, ma queste valvole sono originali, Fabri, originali perché sono delle valvole, praticamente hanno la ghiera in plastica con i piedini che poi escono sotto la ghiera in plastica, capito? Non sono quelle valvole tipo a tubo, tutta in vetro, eccetera. E sono un po' difficili da trovare, E quindi non le avevo trovate. E per Gianni ce le aveva, Gianni Capri 2, e me le aveva regalate. Me le ha regalato una scatola, che poi erano tutte mischiate, insomma, forse di anche altre apparecchiature apparecchiature è sempre americane, perché lui ne ha tante apparecchiature americane. La verità, queste due funzionano, le ho pulite con la clinina, erano un po' gialline, comunque il vetro era bello ordinato, il piedino erano buoni, gliel'ho messa e mi dava due ciulate e poi ha iniziato a carare. La linea di craft che avevo, che l'ho data, perché alla fine stava guastando, quella inizialmente dava 250 watt, l'accendevo ogni tanto, la facevo scappare, la spegnevo, cioè poi mi sono rotto le scatole, non l'ho più accesa, più usata, e un giorno sono andato ad accenderla a Fabri, non accendeva neanche, allora alla fine l'ho data a un radioamatore, che a lui le piacciono queste linee così, Collins, Alicraft, Drake, eccetera, gliel'ho regalata proprio, tutto, portatela via, infatti mi aveva regalato un'altra apparecchiatura che a me interessava, si è rimesso tutte le valvole nuove, però quelle si trovano, perché sono valvole che si trovano, mi ha messo tutte le, manco una ce n'era sana, perché lui c'era, provava e dava proprio zero, senza, non prendeva tensione, praticamente era crepate, a forza di non usarla, quindi è chiaro, quando c'è un'apparecchiatura così la devi usare, perché altrimenti la butti via. Esteticamente è bellissima la linea Alicraft, quel modello che c'avevo io, il T46, l'R46, a bande verticali, con le VFO a bande verticali, che sono introvabili, di un valore anche abbastanza alto, però se non le usi tutte le cose valvolari, quando non le usi ravvenite gli etti. Avanti doppio root, io da questo momento mi allontano, vado a portare il cane, se ci siete a dopo mi fa piacere, altrimenti vi auguro a tutti buona cena e buon fine serata, ok? Un abbraccio a tutti, a domani se non ci siete dopo, ciao, vai Gianni. Ciao Claudio, dai, buona passeggiata, troppo comodo anch'io, alle 8 lo chiudo tutto e vado anche a portarlo, per il momento ancora sta dormendo, dai. Io quando ho messo in funzione una ricrasse, il modello L628 è del 54, non so se ce l'hai presente, è un barragione, perché è un barragione, però l'ho messo a posto, dopo le nuove riceve, è una meraviglia. Sì, ma è così, credetemi, è così. Se le radio valvolari, o che siano amatoriali, vintage, o che siano per la 27 sempre vintage, vanno usate, perché altrimenti vanno a morire, ed è un vero peccato, perché poi ci vogliono dei quattrini, capito? Però ci vuole posto per tenerle, manutenzione, balevare, quindi io come valvolare ora c'è solo il DAC e basta, il resto, che poi il DAC è transistorizzato col sistema di potenza valvolare, però è tutta transistorizzata, per il resto non c'è più niente valvolare, ho dato tutto, perché intanto non le usi e alla fine ti glietti tutto. Di nuovo rinnovo i saluti a tutti, un abbraccio, a più tardi, altrimenti a domani, vai Giulio. Ok, ciao qua, ciao, grazie per la chiacchierata, dai, domani solita ora più o meno, poi in serata già avremo modo di sentirci, se non c'è il telefono al limite, perché magari oppure il PMR se sei in Funi, non lo so, perché se vai là magari non hai la radio e allora ci sentiamo eventualmente in PMR. Va bene, qua, ciao, buona passeggiata con Filippo, alle prossime. Avanti Fabri. Ehi, ciao Claudio, buona serata, buona passeggiata, ci sentiamo alle prossime, dai. Avanti già. Lasciamo un attimo di bianco, che ho sentito la modulazione sottofondo. Avanti chi vuole entrare. Mi è sembrato Eugenio da Porto Ottosi, mi sembrava lui. Eugenio, così hai detto, io già sono un giorno senza sentire Eugenio. Capita, anche lui adesso avrà conosciuto l'applicazione TV-Talk, sarà anche lui, essendo campionista specialmente, tu lo sai ormai, quella sistema lì, quell'applicazione è quasi appannaggio di tutti i campionisti, lo sappiamo, tutti lì sono adesso qua, già. E tu ce l'hai, Fabri, l'applicazione, te l'hai messa nel telefonino, l'applicazione CB-Talk? No, non la frega niente, ma guai, io non mi dire a me di Facebook, tutte queste stronzate, Twitter, anche se ogni tanto c'entro io a vedere con un altro nome, però non me ne frega niente queste applicazioni, teleradio, per il baracchino, non me ne frega niente, va. Io stavo parlando, lei sono modulato, Giulio, aspetta, avanti, chi vuole entrare? Avanti, avanti, chi sei? Ciao Giuseppe, come va? Era tanto che non ti sentivo. Non so se Giulio o gli altri ti sentono, io ti ascolto. Giulio, non senti a Giuseppe? Giuseppe Lucino, no, sei lui, non lo sento proprio, assolutamente no. Non so, mamma mi ha detto che non aveva l'antenna. Adesso non so se l'ha sistemata, ma se non lo sento vuol dire che non l'ha sistemata. No, ci siamo sentiti alcuni giorni fa sul Cibitoco, ci siamo sentiti. Lì sì, ma niente di più. Non so se è lui, chi è, Leoncino o Gianni? No, è Giuseppe di Alghero. E allora, non ti ho più sentito, come va Giuseppe? Ehi, vabbè, l'interessante è andare avanti, Giuseppe. Dopo, purtroppo c'è l'età e queste cose bisogna metterle in conto, no? Che ci possa essere qualche dolorino, qualche cosa. E vabbè, c'è io i dolori che sono giovane ancora. E sono tutto pieno di dolori, sono tutto reumatico. Tu Fabrizio lo senti Giuseppe? No, negativo, io non lo sento. Vabbè dai, io mi approfitto per salutarti. Ciao, salutavolo tu, dai, da parte mia. Ciao Giulio, ciao Gianni, statene bene, ci sentiamo alle prossime, io sto devo chiudere, devo uscire dalla commissione. Andati giù. Ok Fabrizio, ciao Fabrizio, ciao. Vabbè, speriamo che tu ti faccia sentire presto. Oh Fabrizio, dai, tu lo sai benissimo, sei ben accetto. Almeno la parte mia tranquillamente, non ci sono problemi. E soprattutto anche dagli altri amici che modulano su questo canale, per cui fate sentire. Ciao Fabrizio, grazie per la chiacchieratina e soprattutto grazie per essere entrato a salutarti. Dai, alle prossime, dai. Vai Gianni per salutare Fabrizio. Ciao Fabrizio, grazie per il piccolo QSO e ci sentiamo alle prossime, dai, fatti sentire. Giuseppe, riprendi tu, vediamo un po' se riesci a alzare qualcosa per vedere se ti ascolta anche Giulio. Non ci disturbi, non ti preoccupare, fai pure, dai, riprendi Giulio, comunque buona... Comunque riesci ascolto, dai, ti saluta anche Fabrizio, avanti giù. Ecco, è registrato il brecco, Franco. Sì, no, non lo sento io già, non lo sento, ma chi è Giuseppe quell'anziano, quello di Alghero, che aveva il 140, quello è, o già. Esatto, quello che ha dato Claudio a fare i lavori, eccetera, sì, quello lì. Non lo sento io, prima lo sentivo, ma poi, vabbè, dipende anche un po' da me, perché prima avevo l'antenna più performante, adesso quella che ho a meno ricezione, per cui, perché è in basso, non perché sia inferiore all'altra antenna, perché se la metto al suo posto ha le stesse caratteristiche, la stessa prestazione della Mantova Turbo, sono più che sicuro. Intanto Franco, avanti Franco con la buonasera. Ciao, buonasera, ben ascoltati, ciao Gianni, ciao anche a Giuseppe se mi ascolta lì al vero, non so se mi ascolta, Franco da Sosso, avanti Giuseppe se mi ascolta. Ciao Giuseppe, comunque ben ascoltato, anche a te. Avanti Gianni. Deve essere per Giulio vedo la nota quella, è strano. Ma oggi non penso che sia per quello, perché con l'antenna va bene. Ma cosa aspetti? Vabbè che adesso non è il momento, ma dico d'estate la metterei sul tetto con l'antenna. Sì, beh certo, sicuramente in estate sì. ma adesso non è possibile già. Cioè è possibile, anche perché io sul tetto ho la passerella, sempre quello, non ci devo passare sulle tegole. Io sui muri perimetrali, essendo le case a fianco della stessa altezza, ho fatto la passerella e ci potevo passare lungo i muri perimetrali, per cui volendo posso anche fare, ma non è il caso. Al limite ci penserò in estate, quando magari c'è la propagazione, eccetera. Anche se devo dire che quest'anno, quando c'è la propagazione, con questa antenna dove adesso ho parlato ugualmente con le nazioni straniere, no? Germania, Portogallo, Spagna, eccetera, eccetera. Per cui va bene lo stesso. Avanti, Franco. Ecco. Esce bene anche così l'antenna giù, quella lì esce. Non so, vabbè, non ce l'hai sul tetto, non è che l'avevi messa sul tetto, più bassa, ma è sul tetto. Nel terrazzo, non è proprio sul tetto, è nel terrazzo, dunque è almeno 6 metri più in basso di dove è la prima lavanta qua. Per cui, quasi anche che rimetto sulla mantova, ma non lo so, in estate vedremo. Perché il problema è l'inverno già, quando incomincia a soffiare il vento fa un fracasso del diavolo la notte, i radiali fischiano proprio, si sente. Poi tra l'altro l'antenna lì dietro era piazzata proprio nello stesso muro dove appunto io ho la zona del letto, capito? E dunque vibrava in una maniera impressionante i radiali, si sentiva proprio il fischio dei radiali, del vento come soffiava e i radiali fischiavano. E quello è per quello che l'ho tolto più che altro già. Però ho voluto anche provare, ma adesso voglio autocostruire questa e vediamo un po' com'è andata, come andrà, ed è andata bene, per cui ce l'ho già almeno un anno e mezzo sempre, e sto utilizzando sempre quella. E l'altra ce l'ho sempre, questa con lo stile centrale, è buttato in terrazza all'ultimo piano, in massarda, siccome il fogliolo è lungo 8,50 m, una cosa così, l'antenna è 7 metri, per cui ci sta benissimo, se non l'ho smontato poi. Tutto il resto è smontato, ma lo stile centrale è sempre piazzato, e pensa che c'è ancora il funghetto, quel funghetto che c'è che serve per la corrente elettrostatica, no? Appunto per il fulmine eccetera, c'è sempre, nonostante che quello di plastica è tutto quanto bello completo, con tutti i gambetti che ci sono, a differenza di tante altre antenne, che ho visto che addirittura non esiste più quel funghetto lì. No, io l'ho tolto quando l'ho piazzata e già ho fatto praticamente, ho messo la cera sopra e poi ho fatto con tutto il silicone e il nastro vulcanizzante, l'ho tappato bene. E a me praticamente mi sta diventando un po' come la tua antenna, perché già due radiali li ho persi col vento, due si sono troncati, quindi malgrado fossero quelli ripieni e legati con la lenta di quella per grughi, di quella grossa, immaginati tu. O sono i burracci che verranno infasciati dal vento, due sono le cose. Comunque tre sono rimasti e due sono partiti. Adesso non ho più voglia di stare a aggiustare le antenne. Quando mi cadono tutti va a farlo solo con lo stilo centrale. Sì, si può parlare lo stesso. Al limite ci metti un paio di contropesi, ci metti dei fili così, ammassa e tirati magari, e fanno anche quelli da radiali e l'antenna la recupero ugualmente. Se no fai altro che fare come ho fatto io, ti compro una canna da pesca, 16 euro, da Decathlon, pochi metri di H55, ti compri 8 metri, basta, e poi il resto, altre 5 metri, 4 metri, 3 metri e mezzo, veramente sono di filo unipolare, da 2,5, 3 mm, e va più che bene, e ti fa l'antenna, non hai problemi, né di radiali, ma è più, oscilla molto, è una canna a pesca, sì che ti puoi immaginare, oscilla che è una bellezza, però anche col vento a 100 all'ora, guarda, non gli fa niente già. Naturalmente dove ci sono le giunzioni della canna a pesca, lì ti devo rinforzare con alcuni pezzi di tubi rigidi, quelli che usano gli elettricisti per gli impianti elettrici. Dunque ho messo un 40-50 cm a ogni giunzione con due collari, uno sopra e uno sopra, e così dove c'è la giunzione degli elementi della canna da pesca rimane abbastanza forte così e non ci sono problemi. Sì, no, la fatta le faceva anche Luca con le antenne. Luca Pippa le faceva. Mi pare che Franco, ciao Franco, per te tutto, buonasera. Mi pare che Franco se l'aveva fatta fare da Luca, vero Luca? Sì, io me l'avevo fatta fare, però si è piegata in tre pezzi, cioè in due pezzi, dai, però poi quando è arrivata a terra era in tre pezzi. Ma quella però è un altro tipo di canna da pesca, quella che prendeva Luca, che ha comprato Luca, era diversa da questa che ha preso Giulio. Se Giulio l'ha presa da Decathlon, quella lì a parte che attira anche i fulmini, perché sono quelle canne da pesca che usiamo per andare a pescare, è diverso, mentre l'altra non attira neanche i fulmini, non attira. Ed è quella che usiamo noi andare a pescare, è più forte di quella là. Sì, in effetti praticamente ci sono quelle canne che uso io a tirare i fulmini lo stesso. Ci sono quel tipo che facevano prima, che cos'era, l'origine, quello lì non attirava i fumi. Sì, infatti deve essere una canna da pesca che non ci sia metallo o Gianni, non so cos'è il metallo, al carbonio, cos'è, deve essere esclusivamente un'antenna, cioè una canna da pesca isolante, se no influenza appunto tutto l'impianto o elettrico, per cui non andrebbe bene Gianni. Appunto, in effetti io quando vado a pescare, che ci sono fulmini, c'ho pioggia, roba leggera, a volte l'ho fatto anche d'inverno, mi mettevo sotto una casetta che c'era e pescavo lo stesso, pescavo anche bene, e con la pioggia si pesca, però usavo sempre canne in resina, non usavo quelle fibre di carbonio, perché quelle lì attirano il fumo. Appunto, no, non devono essere conduttive, no, assolutamente, non ci deve essere metallo o Gianni attraverso, sì, vabbè, i collari per stringere, quelli sì, può passare, però se tu mi metti tutta un'antenna, tutta una struttura intera dove appunto ci può essere conduzione, non va bene, perché ti abbatte il segnale, ti abbatte. Per cui non va bene, deve essere assolutamente isolante. Avanti Franco. Vabbè Franco, non è in garanzia con l'antenna. Non mi fa ridere che non ne ho voglia. No, ma comunque, vabbè, io l'ho voluta provare. Poi sono antenne che vogliono ancorate anche al centro, quelle lì, solo. Diciamo che come antenna usciva bene, anzi riceveva anche bene il poco che l'ho provato, che l'ho avuta. Guarda, in confronto alla Mantova, di ricezione era molto migliore quella là, era molto migliore, però aveva quel coso, è come la Game Master, lo stesso, anche se un'antenna che costa una barca di soldi, non si credere che quella lì non si rompa, secondo il vento che trova quella lì fa la stessa fine, fa, perché è un materiale che vuole ancorare anche al centro, in modo che l'antenna non molleggi tutta quanta insieme, capito? Se no si spacca, e così ha fatto quella là, anche la Game Master, a qualcuno se l'è spaccata così, che poi Giulio già lo sa chi è. Giulio, tu ti volevo dire, ma tu avevi preso la canna da pesca che hai preso tu, l'hai presa da Decathlon, l'hai presa? Sì, da Decathlon, sì, 16 euro costava, perlomeno, adesso non lo so, io ce l'ho già un anno e mezzo, una cosa del genere, 16 euro costava, ed era lunga 7 metri, però ho siccome c'è la punta che è troppo sottile, perché Gianni il filo è infilato dentro e non lo vedi fuori, è infilato dentro la canna da pesca, per cui nella punta in cima non passa il filo. Allora l'ho sostituito con un altro pezzo di canna, la pesca che mi ha dato Giulio Mulito, mi ha dato, e ho sostituito con la punta lì, Gianni, perché aveva la cosa, il finalino, diciamo, di questa canna da pesca più grosso, più come foro, e dunque l'ho infilato lì dentro, mentre invece in quel pezzo originale non infilava il filo, perché era troppo sottile, non si poteva nemmeno bucare già, perché era talmente sottile la punta che era quasi come il filo stesso. E allora l'ho sostituito con questo altro pezzo che ho chiesto a Giulio Mulito, che lui, tu già lo sai, lui va sempre a pesca, ne ha sempre di carne da pesca in abbondanza, e me ne ha dato una che lui non usava più, e ho utilizzato il pezzo finale, l'ho sostituito con quello che mi ha dato lui, Gianni. Scusa già, ma tu hai preso allora quella per il fiume, hai preso, non quella per pescare in mare, quella senza lille hai preso? Ah beh, non me lo chiede questo, perché io di pesca non me ne intendo, io ho preso questa per la pesca, ho chiesto, no, questa qui dice tutta quanta in cosa, in lille, mi ha detto, questa è tutta in lille, non ci dovrebbe essere metallo, no, perché metallo siccome io non la devo utilizzare per pescare, perché non mi interessa proprio la pesca. No, questa qui non ce n'è, quella che c'è metallo e quella al carbonio, eccetera, eccetera. E io mi sono filato e ho preso quella, e in effetti va bene. Allora hai preso quella senza anelli, come quella che ce l'ho anche io, quella lì, che è 7 metri, quasi 8 metri, quella lì. Avanti già. Ma già ne si è allontanato, si vede che ha il telefono. va bene, dai, comunque già va bene. Sarà stato fortunato, sarà stato tutto quello che vuoi, io so solo che ho rispettato le misure che ho visto lì al computer, e le ho rispettato quelle misure lì, l'ho fatta e è andata bene. Nella bobina mi sembra che c'erano 16 o 19 spine su un tubo da 63, mi sembra, una cosa del genere, 63-65 mm di diametro. E dunque, vabbè, non mi ricordo se sono 16 o se sono qualcosa, forse 19 spine sono di H155. Per cui va bene, poi sino all'altezza metà, dai, più o meno, poi da lì su ci sono 3,50 di filo elettrico, filo normale, e c'è un condensatore su da 9 cm, praticamente pari a 9 picofarad, il condensatore sarebbe un pezzo di cavo RG, cosa avevo messo, se mi ricordo bene, H1000 avevo messo, un pezzettino da 9 cm. Poi ce n'è un altro più in basso, a metà antenna, quello è 56, se ricordo bene, 56 e qualche millimetro, adesso non mi ricordo. Comunque all'incirca così, beh, ho preso le misure dal computer, ho fatto quelle e va bene, altro che se va bene. Sì, infatti io volevo capire, perché se tu hai preso l'altra canna, quella senza, allora ci sono gli anelli dove è fatto la lenza dentro, non so se l'hai mai visto la canna da pesca, penso di sì, l'abbiamo visto. Allora, hai preso quella canna che non aveva gli anelli e basta, hai preso. Perché per andare a pescare ci vuole quella che ha gli anelli, per infilare la lenza dentro. C'era niente, no, di coso, di metallo non c'era niente, assolutamente niente, c'erano solamente nei collari, no, i collari dove appunto si stringeva ogni elemento, gli elementi della pasta, non c'era altro, di materiale del ferroso non c'era nient'altro, solo quello c'è. Sì, ho capito, però c'ha degli anelli, come ti posso spiegare? Faccio una foto da una canna e te la mando. allora, dunque, alla base, lì c'era una specie di anello grosso, c'era, quello io l'ho proprio eliminato del tutto, quello lì. Cosa ho usato? Ah, ho usato un troncone di coso, di legno, ho infilato il legno dentro per rinforzarlo alla base, no? Perché lì ho pensato, qui il vento sicuramente me la spezzerà qui dalla base dove c'è la bobina, e io invece ho infilato un pezzo di legno duro, ci ho infilato, saranno 40 cm più o meno là dentro, in modo che lì quando oscilla tutta la forza del vento non si ripercuote lì, perché sicuramente lì si sarebbe potuto spezzare. Poi al primo collegamento, la parte più grossa e la parte più sottile degli elementi, così, lì ci ho infilato un pezzo di tubo da elettricista, siccome ne ho diverse sezioni, ne ho io, no? E man mano che sale è sempre più sottile l'antenna, allora ho utilizzato prima un pezzo più grosso, poi un pezzo più sottile, e li ho ancorati con due collari di quelli a vite, di quelle fascette a vite, in acciaio inossidabile. Ho messo quelli e ho visto che col vento fortissimo non si piega, si oscilla moltissimo, ma molto veramente, però non si spezza, non si è spezzata, e tiranti non ce ne sono, non c'è niente. Ecco, no, ce l'ho la canna qua, deve essere dentro di lì, per poco mi cade la roba giù, di cazzo. Stavo cercando la canna, invece non ce l'ho qua. Scusa un attimo, forse mi hanno chiamato, scusa. La bufala, dai, ti devo lasciare, pronto per la cena, devo scendere. Alle prossime, a domani, fra, ci sentiamo. Ciao, fra, grazie per la chiacchieratina, scusa, non posso trattenere perché mi hanno chiamato. Ho sentito bene, così, appunto, mentre parlavo mi hanno chiamato. Alla prossima, ciao, fra, grazie per la chiacchierata, a domani, ciao. Ok, ciao, ci sentiamo, ciao anche a Gianni. Ciao Giuseppe, se sei ancora all'ascolto, ci sentiamo. Ciao Gianni, se mi stai ascoltando, ciao, alle prossime, ci sentiamo domani.